Fabio, la carreta te, il mio saluto, alla tanto mia parziere, più non potrai sare, né lì trovai versarmi, perder io penso a te,